GR Sport. Buongiorno da Carlo Genta. È la Fiorentina, meravigliosa da Eindhoven, a tenere il calcio italiano in Europa. Dopo l'1-1 del Franchi, i viola vincono sul campo del PSV. Al 38esimo punizione, Liverani tocca per Mutu, tiro splendido e Gomez battuto. 1-0 per i viola all'intervallo. All'ottavo della ripresa Gomez para su Pazzini, Mutu riprende la respinta del portiere e insacca il 2-0. Viola in semifinale di Coppa UEFA per la seconda volta nella loro storia. E sentiamo Cesare Prandelli con la 7. L'orgoglio di aver fatto una grande prestazione, questo è l'orgoglio. Adesso pensiamo a altre cose, gioiamo che insieme ai nostri tifosi volevamo fare una grande partita, perché quando si muovono 2.000-3.000 persone per venire a vedere la squadra devi per forza di cose essere generoso, e la squadra è stata molto generosa e molto ordinata. Quando giochi tutti convinti, determinati, ma soprattutto ordinati davanti, hanno fatto un lavoro incredibile, Mutu, Pazzini, Santana. Se loro tre si muovono bene, gli interni salgono e facciamo, secondo me, una buona pressione, e abbiamo fatto questo. E quindi poi quando conquistavamo palla, con molta tranquillità, riuscivamo a gestirla. Sono stati bravi, io ero tranquillo, stranamente. Ho fatto due allenamenti molto bene, quindi non so, sarò stato un po' incosciente, però ero tranquillo. In semifinale i viola troveranno i Rangers Glasgow, che hanno eliminato lo Sporting vincendo 2-0 a Lisbona. La gara di andata in Scozia è il 24 aprile, il ritorno il 1 maggio a Firenze. Dall'altra parte del tabellone, incredibile partita a Getafe dopo l'1-1 di Monaco di Baviera. Il Bayern pareggia all'89esimo con Ribéry e si va ai supplementari. Getafe ha segno due volte nei primi tre minuti dell'extra time, ma è Luca Toni a segnare al 115esimo e al 120esimo i gol qualificazione per il Bayern, che in semifinale giocherà con lo Zenit San Pietroburgo. Lasciamo le coppe, Milano si accende come un albero di Natale fuori stagione intorno al nome di Ronaldinho. Silvio Berlusconi ribadisce, se lascerà il Barcellona sarà solo per il Milan. Adriano Galliani si spinge ancora più in là, parlando di un Milan in strapole position per il brasiliano e di operazione che si farà, dice Galliani. Ma c'è anche l'Inter interessata a Ronaldinho, tanto che c'è chi parla di derby di mercato e Massimo Moratti, assediato da mille microfoni, risponde così. Interessano tutti i giocatori interessanti, ma non disperatamente. Sì, quindi, da Roma che, un attimo solo, quindi non c'è alcun derby, come ci hanno detto. Non credo, non penso che sia un derby acceso, decisamente. Sul fronte Milan intanto si dà per certo ormai il ritorno di Andriy Shevchenko, tanto che capitan Paolo Maldini gli riapre le porte dello spogliatoio rossonero. Dal punto di vista dell'ambiente non esiste il problema assolutamente. Tutti quelli che hanno dato tanto a questa squadra saranno sempre ben accetti, da parte della società e da parte dei calciatori. Infine il basket, sarà il Maccabi Tel Aviv il 2 maggio a sfidare la Montepaschi Siena nella semifinale di Eurolega alle Final Four di Madrid. CSKA Mosca Tau Vitoria sarà l'altra semifinale. Ieri il Maccabi ha battuto 88-75 il Barcellona nell'ultimo spareggio dei quarti di finale. Israeliani sempre in controllo in una gara molto nervosa nella quale è stato espulso Gianluca Basile, uno dei due italiani del Barça. E oggi, vi ricordo, è giorno di basket su Radio 24. Vi aspetto alle 14 con Palla a Spicchi. Di nuovo buona giornata a tutti.